Con Davide Celli vorrei invece affrontare la seconda lezione. Si continua a parlare di cose che sembravano superate, ma al momento come soluzione alla crisi energetica viene riproposta la soluzione nucleare, ed è di questo che parlerà la seconda lezione. Sì, purtroppo noi viviamo in tempi che anche attraverso l'uso della parola tendono a normalizzare quelli che sono degli eventi apocalittici. Si fa un gran uso di ossimori, no? Si incomincia a parlare di bombe nucleari tattiche, quindi che esplodono e non fanno danni. In passato si è persino fatto di peggio, ricordiamoci che le bombe venivano chiamate, non so, Little Boy, Fat Boy, si cercava di umanizzare la bomba. Lo stesso Enola Gay, il bombardiere, portava il nome della madre del pilota. Quindi, come dire, una figura simbolica come quella della madre diventa invece una figura terrificante, portatrice di morte. Cioè noi oggi viviamo in un tempo di ossimori e quindi c'è bisogno anche di una grande ecologia della parola, cioè bisogna rimettere a posto le parole che vengono usate il più delle volte male e anche a sproposito e soprattutto le giustificazioni che si danno. Cioè, se noi andiamo a vedere, si è parlato in passato della banalità del bene, io parlerei più di ambiguità del bene, perché tutte queste azioni che noi stiamo compiendo, tutte queste guerre, che non c'è solo la guerra in Ucraina, molto spesso sono giustificate, no? Cioè, è la famosa guerra preventiva di Bush che ha aperto questo scenario, cioè la guerra preventiva, cioè quindi bisogna fare una guerra buona per evitarne un'altra che è più grande, no? In queste guerre vengono usate le famose bombe intelligenti, che di intelligenti non hanno assolutamente niente, perché se fossero intelligenti si rifiuterebbero di cadere sulle donne e i bambini, invece cadono, quindi sono bombe stupide che però ribaltano il principio e le chiamano intelligenti. Quindi io sono per l'ecologia della parola, sono contro il nucleare, perché il nucleare è, come dire, una tecnologia che può avere una derivazione anche bellica, infatti si sta parlando di costruire anche delle bombe sporche con le scorie, per cui io sono contro tutto ciò che anche in potenza può essere pericoloso, no? Io sono contro la caccia, per esempio, perché la caccia oggi si fa con armi che sono da guerra. Da noi si spara un cinghiale e da un'altra parte si spara una persona. Questo è il punto. Infatti prima hai fatto un bellissimo parallelismo sul deposito di violenza che noi appunto depositiamo quando pratichiamo violenza verso gli animali, quindi prima o poi questa violenza che pratichiamo verso gli animali all'occorrenza può essere praticata sugli uomini. Sì, infatti questo è l'aspetto veramente più interessante. Noi usiamo gli animali, e noi sappiamo che gli animali sono stati addomesticati prima di tutto perché stando vicino all'uomo potevano essere conservati, no? E già questo è un paradosso, perché pensiamo a chi alleva animali e poi li deve mangiare, no? Quindi vuole bene all'animale, però ecco, allora l'animale conservato vicino a noi, al quale noi poi facciamo del male all'interno degli animali, ci permette, degli allevamenti intensivi, ci permette di conservare la violenza, che poi noi spendiamo da altre parti. E ci sono dei casi eclatanti in tutto questo. Se noi andiamo a vedere nelle vite dei serial killer, scopriamo delle cose molto interessanti. Tutti i serial killer hanno sempre incominciato, come dire, la loro attività non sull'uomo ma sugli animali. Per esempio Jeffrey Dahmer tagliava le rane, Ted Bundy uccideva le rane con, c'era anche questa analogia tra serial killer, uccideva le rane con le pietre. Quindi molto spesso l'uso, che la violenza che noi scarichiamo sull'animale ci serve come forma di esercizio. Se invece noi aboliamo la violenza, probabilmente avremo un mondo migliore, no? Perché gli animalisti si battono, come dire, all'apice del problema, no? Cioè noi fino ad oggi abbiamo cercato di introdurre delle categorie nuove alla democrazia, no? Come dire, all'uomo, no? Ma questa lotta deve continuare, deve anche coinvolgere gli animali in futuro, che devono essere liberati dalla loro schiavitù, perché questo è, noi teniamo soggiogati degli animali e questo poi ci permette un domani di tenere soggiogati gli uomini. Dobbiamo abbandonare questa forma di esercizio e ci colleghiamo direttamente alla terza lezione di questo, immagino, primo ciclo, che è religione e madre terra. Beh, religione e madre terra è molto importante. Adesso non so quanto tempo ho, però vorrei raccontare una cosa che mi è capitata recentemente agli incontri di Dobbiaco, che è stata una cosa molto interessante. Ci sono stata una giornata dove hanno praticamente mostrato due documentari, uno prodotto dalla BBC. È un documentario dedicato a una mucca dal giorno in cui nasce al giorno in cui muore e tutto quello che subisce, ma non era un documentario con delle violenze sulla mucca, eh? C'era proprio un documentario distaccato e per questo era ancora più agghiacciante. Poi hanno proiettato un altro documentario, anche quello senza parole, prodotto da Joaquin Phoenix, che era la storia di una scrofa a cui a un certo punto portano via i maialini e lei passa tutta la giornata a cercare questi maialini. Bene, alla sera siamo andati a mangiare e molti dei presenti hanno consumato dei canederli con dello stufato di manzo. Io ci sono rimasto un po' male pensando che quindi non è possibile una conversione. Eppure il giorno dopo ha parlato un teologo, ha detto che probabilmente gli animali hanno l'anima, lui se n'è convinto e lo sta teorizzando. Ha letto tra l'altro un passo dell'enciclica di Laudato Si dove si dice che gli animali non sono utili per la funzione che svolgono, quindi è improprio chiamare una vacca da latte o un cane da riporto o da caccia, ma sono importanti perché esistono, quindi come creature create da Dio. Ha messo in discussione quel famoso passo della Bibbia dove sostanzialmente Dio diceva a Noè: tu potrai fare della natura, adesso non me lo ricordo bene, tutto ciò che vorrai, dominerai sui pesci, sulle acque. Ecco, anche quella pare che sia di origine incerta, forse non è mai stata scritta, però è stato l'antefatto sul quale noi abbiamo costruito la nostra esistenza su questo pianeta. Bene, allora, però quel giorno lì, dopo che ha parlato al teologo, siamo usciti, siamo andati a mangiare, c'era un buffet enorme, da una parte era tutto vegano e vegetariano, dall'altra erano tutti speck e salumi, quel giorno nessuno ha toccato gli speck. Allora io ho capito che approcciarsi a un discorso religioso serve proprio a questo, cioè a portare le persone all'interno di una sfera completamente diversa da quella attuale che vivono tutti i giorni, dove le persone vengono costantemente bombardate da messaggi, si difendono e non riflettono. Cioè aprire, come dire, la discussione su temi religiosi può forse aiutare a capire qual è il nostro posto su questo pianeta, perché io sono antispecista e quindi io combatto per la difesa di ogni forma di alterità, non solo degli animali, anche un paesaggio ha diritto di vivere, e poi combatto contro tutte le categorie che noi utilizziamo per poter sopraffare, cioè gli animali li uccidiamo perché sono inferiori a noi, le montagne le deprediamo della sabbia perché non hanno vita. Bene, no, io combatto per loro, perché se anche fosse vero, se anche una montagna non avesse vita, questo non ci autorizza a distruggere la montagna. Se anche un maiale è scemo, non ci autorizza a mangiarlo. Perché questo è il massimo e più alto livello di empatia che noi come Verdi dobbiamo trasmettere agli altri. Perché in politica di empatia non ce n'è. Sono tutti armati uno contro l'altro e i risultati si vedono, perché questo clima di scontro, questo clima di assenza totale di ideali e di scopi, che cosa ci ha portato? Sul baratro. Noi stiamo per assistere probabilmente alla fine del mondo. Spero che non sia così, spero che ci sia qualcuno come Kennedy che riesce a fermare le navi degli americani prima di vederle arrivare a Cuba, lo spero, ma non ne sono poi così sicuro tutte le sere quando chiudo gli occhi.